falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi iniziamo dalla fine, dall'ultimo giorno da viva della nostra protagonista, dai suoi ultimi minuti prima di entrare nella leggenda, prima di diventare una moderna eroina del nostro tempo, Veronica Guerin. Torniamo indietro nel tempo, andiamo al 26 giugno 1996, il giorno più cupo del giornalismo irlandese, come titolerà l'Irish Independent. Due killer mettono in azione un piano maledetto che farà tacere per sempre Veronica. È un piano che è preparato con un certo anticipo, ma che si rivelerà anche un devastante boomerang per tutta la feccia criminale irlandese. Quel giorno Veronica Guerin compare davanti al tribunale di Naas per un piccolo problema, è un'imputazione per eccesso di velocità. Caso numero 37422, Veronica Guerin. Quasi 1200 multe per divieto di sosta. Il 10 marzo eccesso di velocità. 108 miglia all'ora. Il mese scorso un'altra multa per eccesso di velocità perché andava a 104 miglia orarie. Beh, credo che questo mostri un certo miglioramento da parte della mia cliente, vostro onore. Avvertirò le mamme che i bambini possono camminare tranquilli per le strade. Io merito di essere condannata, vostro onore. Mi sembra più che giusto, ecco. Ma se non posso guidare, non posso fare il mio lavoro. Sono una giornalista, sa, del Sunday Independent. Sappiamo tutti chi è lei, signora Guerin. Sì. Questo non le garantisce l'immunità. È il racconto del film Il prezzo del coraggio di Joel Schumacher. Il giudice lascia andare Veronica con una leggera multa e questo ammonimento, quindi questo piccolo incidente, si risolve. Lei, raggiante, lascia il tribunale alle 12.40 e si dirige verso Dublino a bordo della sua Opel Calibra. Non visti, due uomini in giacca di pelle nera a bordo di una moto la stanno seguendo. Lei chiama un collega, poi suo marito, poi altri colleghi, è felice di aver evitato per un soffio la sospensione della patente, ma intorno alle 13, mentre ferma un incrocio, l'appuntamento con il destino è segnato. Stavolta non m'hai fregato, Chris, ho ancora le ruote, mi ha multata, senti questa, è troppo bella, 100 sterline, non è incredibile, mi devi un pranzo e quando lavoro costo cara, non te lo dimentico. Veronica! Veronica! I vetri dell'auto in frantumi, poi il suono cupo di 6 colpi di Magnum calibro 357 che uccidono all'istante la più temeraria crime correspondente irlandese e infine un lungo, interminabile silenzio. Veronica Guerin nasce il 15 luglio 1959 ad Artane, che è un sobborgo a nord di Dublino. Ha una famiglia numerosa, padre, madre, due fratelli, due sorelle. Una famiglia come molte altre, anche se contraddistinta da un forte impegno politico in favore di uno dei due maggiori partiti irlandesi, il Fianna Fáil. È educata presso un collegio religioso, i suoi primi anni di vita passano tranquilli, divisi tra gli studi come contabile e la sua grande passione, il football. entra addirittura a fare parte delle squadre femminili irlandesi di calcio e di basket, quindi una vita fino a 30 anni assolutamente normale. Però dal punto di vista professionale, dopo aver concluso gli studi al Trinity College di Dublino, lei comincia a lavorare presso l'azienda paterna, la Gerin & Reid, che lascerà alla morte del padre, che avviene nei primi anni 80, e fonda in proprio una azienda di pubbliche relazioni. Intanto l'impegno sociale di Veronica trova uno sbocco naturale in una appassionata attività politica che la porta a diventare presidente della sede partitica nord-dublinese del OGRA Fianna Fáil, che è il braccio politico femminile del partito irlandese di cui parlavamo prima. Agli inizi degli anni Ottanta entra in diretto contatto col mondo del giornalismo e dell'informazione, che diventerà la sua unica ragione di vita. Professionista in pubbliche relazioni per educazione scolastica, ma comprende sempre di più i media. Organizza per il partito anche sessioni dove invita molti giornalisti che presto diventeranno i suoi colleghi. Sposa nel 1985 Graham Turley, che è il proprietario di un'azienda edile, conosciuto proprio nel corso della sua attività politica. Nel frattempo frequenta dei master universitari di marketing e di comunicazione. Insomma, è una donna normale, però è piena di interessi ed è molto attiva. Una persona normale la descriverà anche 10 anni dopo Angus Fanning, che è l'editore del Sunday Independent, con 3 sole grandi passioni al di fuori del giornalismo: la famiglia, in particolare il suo adorato figlio Cathal, il Fianna Fáil e il Manchester United, che andava a seguire all'Old Trafford ogni volta che il poco tempo libero glielo permetteva. E rimarrà famosa la sua passione, condivisa con me e con migliaia di persone, per il suo eroe Eric Cantona, del quale Veronica possiede anche una foto che li ritrae assieme nel corso di una delle sue frequenti visite allo stadio. Close the door and bar the gate, but keep the windows clean. Poi arriva la svolta. Un giorno del 1990 Veronica Gerin entra negli uffici del Sunday Business Post di Dublino. Veronica Gerin entrò negli uffici del Sunday Business Post nell'autunno del 1990 e disse che voleva diventare giornalista. Il suo curriculum vitae era impressionante. Si era specializzata come contabile, aveva lavorato come consulente di pubbliche relazioni, consigliera politica e consulente di management. Non aveva mai scritto un articolo per un giornale prima d'allora, ci disse, ma voleva dare una scossa al giornalismo. Questo è il ricordo di Eileen O'Toole della prima apparizione di Veronica, giornalista del giornale irlandese. Che cosa abbia spinto una simile donna dalla vita attiva, impegnata e spesso vissuta da protagonista a diventare la maggior crime correspondent nazionale, al punto da mettere prima a repentaglio la sua vita e poi a perderla, è una cosa che è ancora difficile da spiegare. È certo che è molto attenta a ciò che capita attorno a lei. Che tragedia. Per la strada c'erano siringhe dappertutto, perfino dove giocavano i bambini. Oddio. E li dovevi vedere, quegli stronzi, vicino alla loro Mercedes nuova. Ma quante dosi da 5 sterline devono vendere per comprarsi una Mercedes nuova? Fatti un po' di conti. A quanti ragazzi? Nessuno scrive niente su questo. Non importa a nessuno, non conta. Qualcuno deve prendersela con quei bastardi. Fanno soldi a palate. Ecco di cosa dovrei scrivere, Graham. E allora non sarebbero stronzate. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Veronica Gerin, una giornalista d'assalto che ha pagato con la vita la sua voglia di sapere e di diffondere determinate notizie nella calda Dublino. Spostando al lato pietre e massi, scoprì un enorme sottomondo di vizi e denaro, di droghe, violenza e corruzione, di bande criminali e menti criminali, di personaggi che vivevano oltre i limiti del lecito. Non ho mai incontrato una reporter così implacabile nella ricerca di una storia, al punto di essere disposta a volare in Sudafrica, a Londra o in Nigeria per cercare un testimone chiave per il suo pezzo. Questo è il racconto di Damien Thibert, che è l'editore del Sunday Business Post. A metà del 93, dopo 3 anni, Veronica si trasferisce al Sunday Tribune. Ci rimane solo un anno, facendo comunque lo scoop dell'anno, perché rintraccia il fuggitivo vescovo di Galway, Eamon Casey, che ebbe un figlio illegale, lo rintraccia in Ecuador e si garantisce una intervista esclusiva con lui. Beh, un colpo niente male. Nei primi mesi del 94 bussa alle porte del influente e importante Sunday Independent. È proprio qui che Veronica comincia a occuparsi approfonditamente del mondo criminale dublinese e lì prenderà corpo anche la sua leggenda. Veronica Guerin investigò un mondo dove i più basilari scrupoli criminali erano stati affossati in nome della ricerca del denaro facile. Il vecchio codice criminale era morto e dal suo posto era stato introdotto un sistema dove la vita valeva così poco che si era disposti a vendere persino i più stretti amici e complici ai killer per poche migliaia di pound. Veronica Guerin intuì ciò che l'Irlanda non aveva ancora capito, che le regole erano cambiate. Questo è quello che scrive il collega Stephen Dodd pochi mesi dopo la sua morte. E lei comincia presto a condurre inchieste sul folto sottobosco criminale irlandese, investigando nel dettaglio le vite e i traffici dei maggiori boss di Dublino, pubblicando a riguardo una serie di pezzi esclusivi. Famoso rimane il modo con cui Veronica approccia le sue storie, sempre di petto, sempre esponendosi in prima persona al rischio. In più esige informazioni dettagliate di prima mano, a costo di trascurare la sua stessa sicurezza personale. Grazie alla conoscenza dei maggiori e più attivi criminali dublinesi, Veronica è in grado di trattare una moltitudine di argomenti che portano i suoi articoli a occupare quasi costantemente le prime pagine del Sunday Independent, perché le sue inchieste spaziano dai contadini dediti a affari finanziari sospetti, passando per i boss delle storiche famiglie criminali ancora dedite alle rapine a mano armata, per giungere infine ai maggiori trafficanti irlandesi di droga, fino all'attività dell'IRA, che è la più grande organizzazione terroristica nord irlandese. Le storie che lei scrive portano i suoi lettori in una Irlanda che pochissime persone avevano mai visto prima. Lei mette in un sottobosco di droga e di crimine organizzato. Pensate che in quel periodo ci sono 8.000 tossicodipendenti solamente a Dublino. L'angel dust, l'ecstasy, la marijuana si stanno facendo strada anche nei quartieri borghesi. E poi ci sono gli omicidi per le guerre tra i clan. Proprio uno di questi omicidi ha luogo il 18 agosto del 94, quando Martin Cahale, detto The General, viene freddato a bordo della sua auto per ordine dell'IRA. Veronica pubblica un dettagliato reportage su quella morte e sulle attività criminali, sulle relazioni amorose di Cahill e sui suoi rapporti con l'IRA. Il 7 ottobre dello stesso anno viene sparato un colpo di avvertimento alla finestra di casa Guerin. Lei ha appena lasciato il soggiorno per mettere a letto il figlio Cathal. Entrambi escono illesi, ma naturalmente lo spavento è molto grande. Ronnie. Siamo tutti preoccupati. Mamma è preoccupata, io sono preoccupato, sì. E anche Graham, solo che non vuole parlartene. Lo sanno tutti che è tanto inutile parlare con te. Jimmy, quelli minacciano di morte pure la lavanderia se gli piegano male le mutande. Mamma! Mamma, dove hai messo le candeline? Sono sopra il portapane. Ah, sì. E poi non è la prima volta. Ti ricordi quei fanatici religiosi dopo l'articolo sul vescovo Case? Hai sempre fastidio a qualcuno, ma ci si abitua. No, Ronnie, ci si abitua all'acqua fredda, non alle pallottole. Tu sei pazza. Tu faresti lo stesso. Se avessi visto quei bambini per la strada, faresti lo stesso, Jim. No, se qualcuno mi sparasse addosso non lo farei. Ami, guarda! Cal, è bellissimo. Chi te lo ha regalato? Tu e papà! Già! Guarda che ci ho pensato su. Chiunque sia stato era certo che non fosse in quella camera. Ma Veronica, che il marito chiama Ronnie, non si ferma, intensifica la sua azione investigativa. Nel gennaio del 95 pubblica la dettagliata biografia di un truffatore conosciuto come il Coach, e si chiama John Traynor, a cui fa seguire una sola settimana dopo un pezzo su Jerry the Monk Hatch, che è uno dei più importanti criminali irlandesi sospettato per una rapina miliardaria alla Brinks Ellid. Ho da notare che nei suoi articoli lei usa sempre soprannomi coloriti, perché la legge irlandese le impedisce di fare il nome dei narcotrafficanti. E allora ecco: The Coach, The Monk, The Penguin. Due giorni dopo l'uscita dell'articolo, Veronica sente suonare alla porta di casa. Sono le 19, lei si trova da sola. Apre e si trova di fronte un uomo col volto coperto da una visiera. L'attentatore con il volto coperto solleva la pistola, è una calibro 45, la punta alla sua testa. Lei indietreggia e cade. Lui abbassa la canna e la punta alle gambe, sparando. È gambizzata, ma forse il killer non è un professionista. Le sfiora solo l'arteria femorale. Bene, lei non si arrende neanche questa volta. Diventa la più famosa giornalista irlandese. L'attenzione dei media si concentra sul suo coraggio e sulla sua decisione di continuare comunque a fare il suo lavoro. E ancora con le stampelle, quando Veronica fa visita a ogni boss di sua conoscenza per dirgli in faccia che non è disposta a farsi intimidire. E intanto alcune misure di sicurezza vengono stabilite per proteggerla. La polizia le fornisce una scorta 24 ore su 24. Passano alcuni mesi nel corso dei quali Veronica si tuffa ancora di più a testa bassa nel suo lavoro investigativo. La metteranno a confronto questi mesi col futuro mandante del suo omicidio, John Gilligan. Veronica si presenta a casa sua, che è una lussureggiante fattoria per cavalli nella contea di Kildare. È la mattina del 14 settembre del 95. È decisa a fargli quel tipo di domande che neanche il più audace giornalista si azzarderebbe mai a porre. Sono Veronica Guerin del Sunday Independent. Vorrei farle qualche domanda sulle sue proprietà, compreso questo bel centro ippico che ha qui. Tanto per cominciare, può dirmi dove ha preso i soldi? Troia! Hai un microfono? No! Hai un microfono? No! Vattene da casa mia! I Falco e il Gabbiano. Stiamo parlando di una donna che ha fatto la storia del giornalismo internazionale, Veronica Guerin, la coraggiosa reporter irlandese che verrà uccisa per avere cercato di scoprire la verità sul mondo criminale irlandese, con indagini che hanno sollevato un velo su tutto ciò che perfino il popolo irlandese si era rifiutato di guardare, dipingendo un quadro ben lontano dall'immaginario collettivo che vede l'Irlanda come una perla verde pacifica nel nord dell'Europa. È stata uccisa per il suo coraggio sfrontato, per le sue inchieste, è diventata una leggenda, molti dei suoi connazionali hanno scritto addirittura delle canzoni per lei, come ha fatto Eleanor McEvoy, che ha scritto una canzone che si chiama Easy to Lose Hope. È una delle tante. Veronica Veronica dei segnali li ha avuti, ben precisi, minacce, colpi sparati alla sua casa, alla fine un proiettile sparatole in una gamba, e nel settembre del 95 è stata picchiata selvaggiamente da John Gillingham, uno dei boss malavitosi che lei cerca di intervistare. Poche ore dopo quella brutale aggressione, il boss la minaccerà ancora con una telefonata in piena notte. Sì? Sono John Gillingham. Se mi fai qualcosa, se vai alla polizia o scrivi su di me, io rapisco tuo figlio. Me lo faccio. E poi ti sparo. Ti ammazzo. Beh, a quel punto Veronica inizia a avere davvero paura, però non rinuncia al suo lavoro, come dichiara a chi la intervista. Prima che iniziassi ad investigare sulla malavita di Dublino, se qualcuno mi avesse detto che nel corso dei prossimi 12, 18 o 24 mesi mi avrebbero sparato in casa, che avrebbero sparato anche a me e che anche la mia famiglia sarebbe stata minacciata, non ci sarei mai entrata. Ma ora ci sono dentro e non ne posso uscire. È un lavoro che va fatto e io sono una giornalista. In questo contesto di crescente pericolo per la sua incolumità, Veronica comincia anche a vedere riconosciuti a livello nazionale e internazionale i propri meriti nel campo giornalistico. Il 25 ottobre del 95 viene premiata col SB National Award per il suo coraggio e la sua tenacia nel raccontare le più cupe e pericolose storie di crimine e violenza della nostra società. Questo è quello che recita l'encomio. Nel novembre dello stesso anno prende un altro premio, l'International Press Freedom Award, questa volta a New York dal Comitato per la Protezione dei Giornalisti. È la prima giornalista europea a ricevere un tale riconoscimento. Grazie, sono veramente onorata di ricevere questo premio, in particolare per la compagnia degli altri destinatari, che di certo lo meritano più di me. Accetto questo premio per me stessa, ma anche a nome di tutti i miei colleghi del Sunday Independent, che mi hanno incoraggiato e sostenuto nel corso del mio lavoro investigativo, sin da quando iniziai a lavorare nel giornale. È piuttosto insolito sentire che un giornalista irlandese sia stato vittima di intimidazioni e che gli abbiano sparato. Purtroppo, a causa del sempre crescente numero di reati criminali in Irlanda, un certo numero di giornalisti, oltre a me, sono quotidianamente vittime di minacce di morte e intimidazioni. Così, anche da parte dei miei colleghi, delle altre testate ed emittenti, sono riconoscente a CPJ di aver voluto premiare una giornalista irlandese ed europea. Dunque, visto che stiamo parlando di una giornalista investigativa che ha fatto la storia, vorrei il parere di Sergio Nava, che ha pubblicato un libro sulla figura di Veronica Guerin, dal titolo Veronica Guerin, una giornalista in lotta contro il crimine. Buongiorno Sergio. Buongiorno Enrico. Tu che hai studiato da vicino la vita di questa donna, anche dal punto di vista professionale, che tipo di contributo ha dato al giornalismo? È una giornalista che ha lasciato il segno perché ha interpretato, secondo me, il giornalismo così come è realmente. È tornata e andata, se vogliamo, alle radici di questa professione. Cercare notizie, andare dritta alle fonti, senza intermediazioni, soprattutto l'enorme passione che ci ha messo e soprattutto la ricerca della verità. In quegli anni l'Irlanda viveva un'ondata di crimine molto forte, c'era un'emergenza droga e quello che lei fece fu portare all'attenzione dell'opinione pubblica un problema che era sotto gli occhi di tutti ma sul quale le autorità non stavano facendo nulla. So che tu hai parlato con molte persone che l'hanno conosciuta. Qual era l'opinione che il mondo aveva di lei quando lei era viva? Cioè, nel senso, qualcuno l'ha giudicata troppo aggressiva? Ci sono state, come un po' per tutte le figure poi che restano nella storia di un paese, perché Veronica Guerin è rimasta nella storia recente dell'Irlanda, anche per la portata enorme che ebbe il suo omicidio in termini di shock per l'opinione pubblica. La definizione più bella la diede il suo amico Paddy Prendeville, che è un giornalista editore del magazine satirico Phoenix, che la definì una donna dall'integrità diamantina. Questa è una definizione che mi ha colpito molto. Era una persona su cui tutti erano d'accordo a riguardo di un punto, era impossibile fermarla. Era una persona di una enorme determinazione che se si poneva un obiettivo andava fino in fondo. Ricordiamo che subì un attentato, fu picchiata anche dal gangster, che poi non è mai stato provato, però probabilmente ordinò l'omicidio, e andò avanti ugualmente fino a essere uccisa. Quindi sicuramente una persona che aveva tanto e ha tanto da insegnare anche alle nuove generazioni di giornalisti. Ecco, infatti l'ultima domanda che volevo farti, Sergio, è proprio questa: cioè, qual è il limite quando uno dice è meglio che mi fermi, o meglio, per persone così non c'è più un limite? Cioè, anche quando ti picchiano, ti minacciano il figlio, eccetera, ormai sei preso quasi da una furia per la quale non ti puoi più, non ti devi più fermare. Io penso che lei alla fine sentisse il peso di una responsabilità. Se si fosse fermata, come le era stato suggerito da più colleghi, erano state anche proposte alternative, occuparsi di politica o di altre cose, se si fosse fermata probabilmente sarebbe stata interpretata come una sconfitta, un piegare la testa di fronte a queste criminali. Soprattutto lei avrebbe pensato di essere stata sconfitta. E quindi di fronte a uno Stato che solo dopo la sua morte mise in pratica, varò delle leggi anticrimine molto efficaci, ma che fino a quel momento era di fatto immobile, perché tutte le risorse erano destinate di fatto alla lotta contro l'IRA e non contro i criminali comuni, lei probabilmente decise che non poteva fermarsi, perché se si fosse fermata avrebbe abdicato al suo ruolo di giornalista e avrebbe alzato bandiera bianca, si sarebbe dichiarata sconfitta, e questo io penso non poteva permetterlo. Grazie Sergio. Grazie a te. In occasione della premiazione a New York, Veronica punta i riflettori anche sul sistema irlandese che a quei tempi, a metà degli anni 90, impediva ai giornalisti di fare bene il proprio lavoro. You know, we write under ridiculous restrictive... In Irlanda scriviamo con limiti di leggi restrittive ridicole. L'Irlanda è un bellissimo paese da visitare, ma non per i giornalisti. La cosa più difficile per il nostro lavoro sono le leggi restrittive sul reato di diffamazione. È difficile per gli editori, perché sono loro a pagare ogni giorno somme enormi agli avvocati nei tribunali. Queste sono le problematiche che volevo portare alla vostra attenzione qui. Non è tanto il fatto che si spari ad un giornalista, quanto le restrizioni legali entro le quali dobbiamo lavorare. Ringrazio il Comitato per la protezione dei giornalisti per avermi dato l'opportunità di porre l'attenzione su questo punto. Sono davvero onorata di ricevere questo premio, e così facendo intendo ringraziare due persone che mi hanno incoraggiato, nonostante gli ultimi 12 mesi incredibilmente difficili. Loro sono mio marito Graham e mio figlio Cathal, poiché vi assicuro che senza il loro sostegno non ce l'avrei mai fatta. Grazie a tutti. Thank you very much. Ma i premi ricevuti da Veronica Guerin non placano la sua febbre e la sua voglia di raccontare. E intanto c'è un processo che lei stessa ha intentato al boss irlandese Gillingham, quello che l'aveva percossa nel settembre del 95. È un processo che minaccia seriamente il buon andamento delle attività criminali del boss, e che non si concluderà mai, dato che la principale accusatrice e testimone è lei, e verrà di lì a poco eliminata. Nel weekend precedente alla sua morte, nel giugno del 96, Veronica pubblica il suo ultimo pezzo, che è uno scioccante reportage sulla vita di uno dei più noti trafficanti di droga di Dublino, Tony Felloni, conosciuto come King Scum, il re feccia, che proprio in quei giorni è stato condannato a 20 anni di carcere. Poi, in quel tiepido giorno d'estate che rimarrà nella storia del giornalismo internazionale, due killer mettono fine alla vita di Veronica Guerin. Veronica. Veronica. Nessuno saprà mai chi è stato il vero mandante. Tutti pensano che sia stato Gillingham, ma non ci sono abbastanza prove. Però questo omicidio diventa comunque un boomerang per tutta la criminalità dublinese, perché grazie alla ondata di partecipazione popolare che ne segue, la proposta di Veronica di costituire una commissione interna che colleghi polizia, fisco, dogana, detta CAB, Criminal Assets Bureau, viene attuata. L'istituzione di questa commissione missione consente di sequestrare proprietà illecite per decine di milioni di sterline e le autorità irlandesi metteranno in atto la più completa operazione anticrimine del secolo. Porterà a 150 arresti e a una significativa riduzione dei reati, soprattutto quelli legati al traffico di droga. On the broad delight of a summer's day, on the Cork to Dublin motorway, suddenly the singing birds were startled in their song. In the silence of that moment, our world went out of kilter. Anche il popolare cantautore irlandese Christy Moore dedica una canzone a Veronica, una canzone molto bella. But you'll never silence her, your story, it will be written down, her spirit, it won't rest easy until the job is done. Oh, with fists and boots, you broke her bones when she was gunned down at home. As soon as she was able, she faced you up again. Veronica Guerin paga con la vita la voglia di dare un colpo d'ala che cambiasse definitivamente la sua Dublino. Ci sono storie che spesso rimangono sconosciute, storie di persone che nella loro vita lo hanno saputo dare questo colpo d'ala, che sono volate in alto, che hanno lasciato un segno. E se voi avete delle storie che volete che noi si racconti per voi, fatelo. Scrivete a ilfalcoelgabbiano@radio24.it. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.